I numeri, ancora un netto calo degli attualmente positivi che scendono di circa 500 unità. Continuano a scendere, è il 18° giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. A inizio maggio i posti occupati erano circa 4.000, poco meno di 4.000, oggi siamo a inizio aprile, scusate, erano poco meno di 4.000, oggi siamo intorno ai 2.500. Mentre si allenta la tensione sul sistema sanitario, si pensa a come allentare quella sull'economia e la popolazione. Conte fa sapere che a breve il governo presenterà un piano, del quale l'unica cosa che si sa è che dovremo mettere le mascherine fino alla scoperta del vaccino. E poi parla del MES, con quella che alcuni interpretano come una mezza apertura, ma insomma non si sa. E poi il calcio con le società di Serie A che sono d'accordo sostanzialmente per ripartire. Oggi ne parleranno col ministro Spadafora. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Eccoci qua di nuovo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, alle 6:31 minuti di questo mercoledì 22 aprile, per questa nuova puntata di 24 Mattino, con Peter Bescapè in regia, Anita Panizza e Giorgio De Luca in assistenza e in redazione. E ovviamente con voi, come sempre, al 349-238-6666 per i vostri messaggi. SMS, WhatsApp, ma soprattutto WhatsApp audio. Allora, come aspettate, se la state aspettando questa riapertura, ne avete paura? Ormai nella testa delle persone c'è il 4 maggio, c'è questo 4 maggio come data simbolo, come momento nel quale ripartiranno forse, chissà come, una serie di attività. In attesa che il governo dia qualche chiarimento su come esattamente vuole fare. L'idea è partire a livello nazionale, anche se su questo ci sono molti dubbi. Ma insomma, Milano, Bergamo, Brescia potranno ripartire come, che ne so, Napoli che ieri era a contagi zero? Ma ci sono molti dubbi e molte perplessità su questo. Con il nostro Bob Marley a farci coraggio, come sempre, tutte queste mattine. Molti dubbi che la Lombardia possa ripartire in contemporanea ad altre regioni che non registrano contagi. La mortalità, cioè i morti che si registrano quotidianamente in Lombardia, sono ancora molti, oggettivamente. Non è facile prendere decisioni di questo tipo. Di certo, sulle attività produttive si può ragionare. Allora, da cosa iniziare? Allora, ieri in rassegna stampa vi ho letto, ce l'aveva solo il Corriere della Sera, un po', no, di taglio basso, questo racconto di uno scenario rimasto secretato, che il governo ha tenuto segreto, per così dire, per farla molto semplice, che era lo scenario peggiore, che immaginava, ipotizzava decine di migliaia di morti, decine di migliaia, e sulla base del quale si sono prese alcune decisioni, oppure non sono state prese, e su questo bisognerà ragionare, attenzione. Ne ha parlato ieri a Carta Bianca il ministro della Salute, Speranza, sentiamolo, va. abbiamo iniziato a lavorare e tra i temi che ci siamo posti c'è stato quello di costruire, elaborare uno studio ipotetico su cosa avrebbe potuto avvenire nel nostro paese dinanzi, diciamo, ad un arrivo consistente del contagio. Questo studio è stato elaborato durante il mese di febbraio. In questo studio sono state indicate anche alcune misure di reazione che il governo avrebbe dovuto mettere in campo rispetto a potenziali focolai, e io penso che sia stato un merito del governo aver elaborato questo studio. Se il 21 di febbraio, quando per la prima volta io ho firmato un'ordinanza insieme al presidente Fontana sull'area di Lodi, facendo quella zona rossa così complicata, eravamo pronti esattamente perché avevamo fatto uno studio nel mese di febbraio. Diciamo pronti parzialmente, e lo ripeto ancora una volta perché sennò qua poi mi si dice, me l'ha scritto qualcuno ieri su Facebook, un'ascoltatrice che molto gentilmente mi ha detto, insomma, ma lei ce l'ha sempre col governo, insomma, essere pronti qua, insomma, mi pare che ci fosse qualcuno che non era particolarmente pronto, né da queste parti in Lombardia né da quelle parti a Roma. Alcuni elementi di reazione tardiva li ravviseremo a un certo punto. Molto mi ha colpito molto questa ascoltatrice, perché si è rivolta a me scrivendomi non lei ma ella. Ella è di parte. Non è male però, Se ritornassimo all'ella, la vita sui social sarebbe un po' più serena, forse. Pronti? Un ascoltatore invece insulta genericamente, diciamo, non so se il governo, la regione, le regioni, non lo so. Pronti ma senza mascherine, ma va. Eh già. Perché c'è tutto questo di cui tener conto. Pronti sì, ma con i tamponi, senza reagenti, senza tamponi, con i test sierologici che servono, non servono. Ella non sia così volgare, caro ascoltatore. Allora. Cosa ancora? Il tema della fase 2, il come ripartire, il quando, questo 4 maggio messo come data ipotetica, anche se c'è chi ragiona su una partenza un po' prima, almeno con alcune attività. Comunque, il Presidente del Consiglio Conte. Si tratta, lo ripeto, di uno dei passaggi più sensibili e più complessi. Siamo consapevoli, infatti, che una imprudenza commessa in questa fase, un'avventatezza in questa fase, dettata semmai dalla legittima aspettativa di ripartire, può, in un momento in cui non è ancora esaurita, ma solo contenuta la carica del contagio, compromettere tutti i sacrifici che con responsabilità e disciplina i cittadini hanno dovuto affrontare sin qui. Mi scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore, vero che ella era tra quelli che all'inizio minimizzava sulla potenziale gravità. È vero, l'ho detto e ho anche ammesso l'errore, però pubblicamente più di una volta qua, insomma, adesso non è che tutti i giorni lo posso dire. Sì, è vero, mi sono sbagliato, ok? Così lo mettiamo in chiaro per bene. Agnese Pini, direttrice della Nazione. Ciao Agnese, tornata da noi. Come stai? Buongiorno. Buongiorno. Bene. Ella come sta? Sta bene? Sta bene. Allora Agnese, a proposito, come sappiamo, la Nazione insomma ha un quotidiano ovviamente con un taglio anche nazionale, che però insomma la sua forte diffusione in Toscana. Toscana che sta pensando a una ripartenza, mi sembra di capire, un po' più rapida, almeno per alcune attività. Ho visto che c'è stato addirittura un accordo, per esempio, con Confcommercio, con i pubblici esercizi. Si riparte, diciamo, con il domicilio e l'asporto. Ovviamente non ci si siede al ristorante, però insomma qualcosa mi sembra che si muova, no? Questa è la direzione su cui premono moltissimo le associazioni di categoria e su cui sembra si possa trovare un accordo, chiaramente su una regione come la Toscana che punta la sua economia moltissimo su due settori in particolare, cioè su attività produttive che hanno un forte impulso nell'export e poi su tutte le attività di ristorazione anche legate al turismo, penso a città fortemente turistiche come Firenze, ottenere delle misure ad hoc su questo tipo di attività, quindi export e attività ricettive legate alla ristorazione e quant'altro, diventa fondamentale per contenere la paura dello spettro della crisi economica, che anche qui come in tutta Italia è fortissimo. Quindi su questi settori la possibilità di avere delle deroghe, per esempio su quelle attività produttive che hanno a che fare col comparto della moda, ma anche con i mobilifici, col manifatturiero, quindi con questa fortissima impronta legata all'esportazione, si sta lavorando a un accordo che potrebbe prevedere una riapertura già dal 27 aprile, quindi con qualche giorno di anticipo rispetto alla fatidica data che ricordavi anche tu, che è quella del 4 maggio, insomma, con la riapertura per tutti. Non male. Toscana, che lo abbiamo raccontato, ha gestito la cosa in maniera diversa. Guarda, adesso non è ancora il momento di attribuire le responsabilità, lo diciamo molto chiaramente, lo diciamo tutti i giorni, poi uno può valutare le strategie in corso d'opera. La strategia della Toscana per il momento ha funzionato in termini di contenimento del virus, un po' più medicina del territorio, tanto per fare un esempio, meno ospedalizzazione. Ha giocato il fatto che l'attuale presidente Enrico Rossi è stato assessore alla salute e quindi probabilmente una certa lettura e dimensione della cosa ce l'aveva presumibilmente, però per il momento un po' come il Veneto dall'altra parte politica, così non facciamo distinzioni, in modo diverso l'ha gestita. C'è una questione generale, Agnese, no? Che se la sottolineiamo, l'abbiamo sottolineata di fatto anche adesso implicitamente nella nostra chiacchierata, ed è un po' il rischio di questo caos, di questa confusione con regioni che partono prima, regioni che partono dopo, non si sa che cosa succede esattamente, come funzionano le regole, se dare una regola nazionale o dare delle regole locali, tu come la vedi? È stato il grosso tema questo proprio negli ultimissimi giorni, tant'è vero che ieri quello di Conte è stato anche un po' un appello all'unità, no? Una specie di richiamo a questi governatori che negli ultimi giorni avevano scalpitato parecchio, ciascuno con la propria idea sulla riapertura e tutte sistematicamente molto diverse le une dalle altre. Ecco, questo sì, in genere una grande confusione, che è l'ultima cosa che ci serve per fronteggiare intanto la fine dell'emergenza sanitaria, che non è ancora conclusa, e poi soprattutto la ripartenza, che deve essere in primo luogo ordinate con idee chiare, no? Le poche idee chiare e precise che invece non ci sono. Il governo che ha mostrato un po' di reticenze, un po' di poca chiarezza, no? Su alcune questioni che venivano poste, su alcune richieste molto forti, delle pressioni molto forti da parte di industriali, associazioni di categoria e enti locali, ha lasciato spazio appunto alle autonomie regionali, che però non fanno benissimo al dibattito, perché generano, questa è la sensazione appunto nei cittadini, un grande senso di confusione e poca concretezza. Ci vuole una regia nazionale per stabilire un piano di riapertura. Sì, ma anche perché, Agnese, permettimi di dire anche, no, che allora, quando si parla di regioni, no, si parla in realtà di confini che non sono impermeabili, insomma noi parliamo del confine tra l'Austria e l'Italia. Novara e Milano fanno parte della stessa partita, Arezzo e la provincia di Perugia, per rimanere nelle zone, no, da voi più battute, fanno parte di fatto della stessa, non dico della stessa area economica, ma siamo molto vicini, e quindi insomma, poi è difficile dire vabbè, qua riapro, qua non riapro, no, forse ci vuole un ragionamento più generale. Non solo, senza una regia nazionale si rischia di generare anche la sensazione di avere zone privilegiate per imperio, altre meno, o fette economiche che hanno più possibilità di altre solo perché c'è una situazione geografica che permette qualche possibilità in più. Questo senza una regia nazionale, come dicevo, non credo che faccia bene a un piano di riapertura del paese. Certo che poi il fatto che ci sia una regia nazionale non significa che tutti debbano ripartire allo stesso modo ovunque, perché l'incidenza del virus è stata diversa e di questo credo se ne dovrà tenere conto, ma a livello di governo centrale. L'autonomismo esasperato delle regioni crea Molta polemica sui giornali, tra l'altro abbiamo ampio spazio. Sì, poi... continua. E anche in televisione. Ieri allora abbiamo assistito a una specie di confronto a porta tra Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia, e De Luca, il presidente della Regione Campania, è un po' diventato, no, per certi momenti, sì, il simbolo della dura. Esatto, il Robocop. Sì, cioè, anche pieno di meme. Internet è pieno di meme su De Luca. Sì, ci sono anche gli sticker su WhatsApp con De Luca che ti dice di star fermo e di rimanere a casa, la storia del lanciafiamme, eccetera, eccetera. Dice De Luca, forse lo possiamo sentire, Peter Bescapè, bisogna limitare la mobilità appunto alle regioni. Vediamo se lo peschiamo, via. Quindi lei... Allora, io sono assolutamente d'accordo con Attilio Fontana che dobbiamo aprire in tutta Italia, ma aprire in tutta Italia non significa aprire nello stesso modo, perché abbiamo regioni nelle quali non c'è neanche un focolaio di contagio e regioni nelle quali il problema è ancora fortemente presente. Dunque, e concludo, io credo che dobbiamo perlomeno limitare la mobilità, che oggi è limitata ai comuni di appartenenza, alle regioni di appartenenza. Oh, mi fa notare un ascoltatore, un'ascoltatrice, mi dice, un'ascoltatrice, dice sono un po' stufa di sentire che Veneto e Toscana hanno gestito diversamente l'emergenza, e ti credo, avevano anche numeri di contagi enormemente diversi, è come paragonare rispetto alla Lombardia le mele con il tiramisù, un curioso paragone, una curiosa metafora, però insomma, guardi, il ragionamento ci sta, io ripeto sempre, insomma, si possono dire mille cose. È giusto che si inizi a ragionare già da adesso un po' sulla responsabilità, su come sono state gestite le cose in questo periodo. È chiaro che poi i conti si faranno alla fine. Si faranno alla fine i conti, e si guarderanno un po' le cose in termini, spero. La magistratura sta intervenendo, ma spero che in questo caso non ci sia una supplenza della magistratura nei confronti della politica, ma ci sia in realtà una politica che sa analizzare quali sono le azioni giuste, perché solo in questo modo poi ne usciremo. Il traffico. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Mattino. Ripartire, ma come? Guardate che è un tema che ci stiamo ponendo da giorni qua a 24 mattino, anche con Maria Latella, ed è un tema che ci stiamo ponendo un po' tutti, ed è il seguente. Allora, prendete una coppia con figli piccoli, nella quale entrambi lavorano. Sono, mi pare, il calcolo sia intorno ai 3 milioni e mezzo di famiglie in Italia, più o meno. Oppure una coppia, cioè non una coppia a questo punto, una famiglia monogenitoriale, nella quale appunto la persona che ha la cura dei figli lavora. Sono un paio di milioni circa in Italia, mal contati. Si ricomincia, si riparte, si lavora. Se si va in fabbrica, e quindi se si deve assicurare la presenza fisica e non c'è lo smart working, posto che fare lo smart working con i figli piccoli a casa non è per nulla semplice, e bisogna dirselo, come si fa? Cioè, come gestisco i bambini, visto che dai nonni non li posso mandare perché rischiano di contagiarli? Allora, è un grosso problema. A questo tema, anche a questo tema e più in generale alla riapertura delle scuole, dedicheremo un Radio Day nella giornata di venerdì. Molte nostre trasmissioni se ne occuperanno esattamente di questo, sulla base anche del fatto che, insomma, alcuni paesi stanno già pensando di ripartire, di riaprire le scuole. Macron ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, poi c'è stata una frenata, però, insomma, è un tema su cui ragionare. è uno dei luoghi nei quali si sta ragionando su questo, quantomeno in termini di asili nido, ossia quelli che sono un po' la competenza regionale, è il Piemonte. Che pure è una regione che sta vivendo una fase molto complicata dal punto di vista del numero dei contagi, delle vittime e anche della gestione sanitaria. Alla guida della task force, mi scusi Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, se sorrido sulla parola task force, ma come sa, un po' di ironia se n'è fatta. Buongiorno Saracco. Buongiorno, ecco. Come state? Abbastanza bene, grazie. Allora, chi guida la task force? Saracco. Guido, ecco un po'. Che guida la task force, appunto, incaricata dal presidente della regione Cirio di mettere a punto alcuni elementi che a livello regionale possono, no, sulla cosiddetta fase 2. Saracco, tra le altre cose che avete ipotizzato è appunto una riapertura degli asili nido, no? Sì, guardi, gli asili nido sono di pertinenza del comune, in realtà, e sono per metà pubblici e per metà privati. E chiaramente quelli privati hanno il problema della sussistenza come impresa, né più nemmeno che le imprese manifatturiere che dovrebbero partire il 4 di maggio. Ma non è questo il punto, è quello che diceva lei, la problematica forte dei bambini, di come gestirli. Poi oggettivamente non è convincente il fatto che non ci sia previsto nulla in questo, al di là di quello che dice la legge, che dice che la coppia può scegliere chi dei due rimane a casa, ma se parliamo di coppia, ma a quel punto si sceglie in base al reddito, perché chi rimane a casa ha il 50% del suo stipendio rispetto a chi va a lavorare. A quel punto nasce anche un problema di genere, perché generalmente è la donna che rimane a casa. Quindi quello che sta già abbastanza capitando in questi giorni per le realtà che sono aperte. Il tenere aperti i nidi è comunque un problema proprio per la inconsapevolezza che hanno i bambini piccoli. Non è pensabile, questo abbiamo concluso con una serie di esperti, che questi mettano addirittura mascherina, perché francamente se ne vincolerebbero molto facilmente. Sì. La cosa più verosimile che può capitare è che nascano delle microcomunità, cioè qualche famiglia che tutto sommato condivide un modo di comportarsi sicuro e uno stato di salute buono, condivide questa microcomunità e condivide la gestione dei figli, quindi crea più gradi di libertà per i genitori per poter lavorare, e questo potrebbe anche essere fatto in sinergia con queste strutture frequentate da, chiamiamole, coorti di bimbi e di famiglie separate rigorosamente. Un po' quello che capita nelle fabbriche, dove le squadre di lavoro che sono organizzate dai datori di lavoro spesso vengono fatte in modo blindato, cioè non si scambiano mai individui per evitare che nascano opportunità di trasmissione del contagio. E questa è una delle ipotesi di cui si sta pensando. È sicuro che aspettare che non ci sia più il problema in questo caso sarebbe la soluzione migliore, perché non esiste modo per questi bimbi piccoli di dare consapevolezza, certo. È molto difficile. Certo, lo è difficile anche con i bambini dell'elementare, o quantomeno dei primi anni delle elementari, insomma non è facilissimo nemmeno con loro, a dire la verità. E state ragionando anche su ipotesi di alcune riaperture, per esempio parrucchieri, barbieri e via dicendo, Saracco? Sì, quello che stiamo facendo è una fase che noi chiamiamo di beta tester, così ricordando quello che capita con i software, no? Quando ancora non sono pronti per uscire sul mercato, ma vengono testati. E quello che facciamo è, con una serie di realtà, dalle piccolissime come un barbiere, poi un centro estetico, un ristorante, un teatro, una piccola azienda, stiamo facendo un'applicazione di un protocollo che abbiamo messo a punto, un rapporto corposo che continua a crescere. Ieri è la notizia che il CONI, il presidente Malagon, ci ha chiesto di progettare la ripartenza delle varie attività sportive. Sono oltre 300 discipline, ognuna ha le sue peculiarità, in qualche caso sarà veramente impossibile, in qualche caso si potrà prendere qualche precauzione. Ebbene, con questo protocollo, che si trova sul sito www.impreseaperte.polito.it, andremo a calare prassi, metodi, procedure raccomandate in diverse realtà, tra cui anche barriere, per dire, perché appunto sono tantissime le realtà piccole, sì. E tra l'altro molto critiche, perché barriere ha mille opportunità di contagio, mille vie di contagio dal contatto diretto tra due persone, addirittura i capelli possono essere una via di contagio, non essere gestiti, bisogna sanificare, detergere, igienizzare uno alla volta, e queste modalità indubbiamente daranno poi anche un impatto economico agli esercizi. Quanti barbieri sono in affitto nei loro locali sarà molto complesso, sì. Con ritmi più lenti e tutte queste procedure. Sì. Sì, forse però appunto partire dal più difficile, per così dire, può aiutare a capire come fare con le attività più facili. Siamo ancora con Agnese Pini, direttrice della Nazione. Agnese, te la metto giù brutale, poi convoco anche gli ascoltatori per dopo se vogliono mandare i loro WhatsApp audio. Riaprire le scuole oppure no? Quantomeno nidi, materne, primarie, che dici? Riaprirle, anche ci vuole un piano di riapertura. Il problema è che è totalmente assente dal dibattito politico nazionale anche questo tema, cioè si scontra con il grave problema di cui dibattevate prima, su dove mettiamo i figli se riapriamo le fabbriche e gli uffici, cosa ne facciamo dei bambini, ma i bambini sono stati all'ultimo posto dell'agenda delle priorità nazionali insieme agli anziani, tra l'altro, e poi sugli anziani abbiamo visto che cosa è successo nelle RSA, però ecco, bambini e anziani in questa crisi sono stati cancellati dalle agende politiche del governo, e questo è un grave problema, cioè riaprire ha un senso, perché se riapriamo le fabbriche e il nostro sistema economico è tutto coordinato, no? Quindi se noi riapriamo un settore senza dare la possibilità al resto di trovare uno sfogo, una soluzione, è un problema, quindi questo è un problema, ma non esistono neanche lontanamente piani seri o tentativi di piani seri per consentire ai ragazzi di andare a scuola in sicurezza, che è un'altra cosa, cioè come si va in fabbrica in sicurezza, si può anche andare a scuola in sicurezza, se no ci prendiamo in giro, no? Cioè, se noi possiamo mettere degli operai all'interno di una fabbrica dicendo che non si contagiano e che il sistema produttivo può ripartire, allora anche i ragazzi possono andare a scuola, ma non c'è un piano per consentire loro di andarci senza contagiarsi o senza contagiare gli insegnanti naturalmente. Soluzioni sono complesse, però entrate scaglionate a scuola, così come sono previste o prevedibili entrate scaglionate in fabbrica per consentire per esempio ai mezzi pubblici di non straripare, può avere un senso. Questo però non esiste neanche il materiale minimo per poter fare una discussione su questo. Allora, a chiudere, ancora un altro paio di voci voglio farvi sentire. Ovviamente tutta la questione del meccanismo europeo di stabilità, dell'utilizzo per le spese sanitarie, del vertice europeo in arrivo. Guardate, forse abbiamo... Forse non abbiamo tempo nemmeno per quello. Comunque, Conte dice il vertice non sarà conclusivo, quindi un'altra volta non ne arriveremo ad una. Sul MES c'è stata una mezza apertura, non abbiamo il tempo di farvi sentire la voce. Ieri ha parlato in Senato, ci sono state le consuete proteste dell'opposizione, vedremo che cosa succederà. Domani avremo un po' di chiarezza, quantomeno da questo vertice europeo. L'altro fronte di dibattito è quello degli immigrati e la regolarizzazione. Ieri la ministra Lamorgese ne ha parlato abbastanza nettamente, c'è stata su questo fronte una mezza apertura e... Insomma, se ne parla soprattutto per il lavoro nei campi, le colf e non solo. E andiamo a chiudere con il nostro Bob Marley. Grazie a Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, che coordina la task force di 80 esperti per la fase 2 della Regione Piemonte. Agnese Pini, direttrice della Nazione. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.